più soldi possibili, ma è quello di mandare un segnale in cui si dice che insomma una comunità è una comunità vera quando ci si dà una mano uno con l'altro. E quindi abbiamo cercato di coinvolgere non solo i commercianti ma anche le associazioni che sul territorio da anni si occupano di creare questo spirito di comunità, dando una mano, aiutando chi è in difficoltà. E quindi insomma la Caritas era il soggetto, diciamo, ideale per poi occuparsi. Mi scusi, voglio capire se ho capito bene come funziona, perché io lascio dei soldi sospesi in un negozio di alimentari, poi in realtà tutti i soldi che vengono raccolti in quel negozio di alimentari si comprano degli alimenti in quel negozio, in giusto? Quel negozio, sì, perché esatto. La grossa differenza è questa, se no sarebbe semplicemente La più classica delle collette, uno dice lasciate dei soldi, quello che appunto diceva prima Alessio, nei bar c'è scritto per i poveri e non sai mai se sono gli indigenti o i poveri dipendenti che non vengono pagati in un altro modo. C'è della solidarietà, c'è dell'attenzione. È chiarissimo, io faccio i complimenti, perché bravo, secondo me sindaco. Anche il sistema che avete inventato fa comunità e questo mi sembra molto bello. Bello anche per quello. Grazie mille al sindaco di Romentino. Let's go Richie Valens, vi ricordo che tutte le canzoni che scegliamo per accompagnare le notizie del programma le ritrovate nella pagina di Si può fare sul sito di Radio 24, c'è la playlist di ogni puntata, le nostre scelte musicali di cui andiamo molto orgogliosi, senti qua. Siamo molto ballerini oggi, oggi si balla. Allora, parliamo di questo. Go Go Bus ha già debuttato un nuovo servizio di bus sharing nato dall'idea di due trentenni, Alessandro Zocca ed Emanuele Gasperi. E Alessandro è qua con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie. Buongiorno. Allora, condividere per risparmiare è l'idea, come sempre, per quanto riguarda l'economia della condivisione, la sharing economy. Avete pensato di riempire gli autobus, no? È così? Esatto, noi intanto parliamo di autobus da noleggio, autobus da turismo, i classici autobus che avete in mente della gita scolastica, che nel frattempo sono migliorati senz'altro come comfort. Quelli con i 5 posti in fondo che tutti vogliono per tirare per le caramelle. Casino. Esatto. Esattamente. E cantare quelli. Battisti. Esatto, non so se ci avete mai fatto caso che quando andate in autostrada almeno un terzo degli autobus che vedete girano vuoti. Questo perché? Perché spesso le aziende che fanno noleggio autobus si trovano a dover effettuare dei trasferimenti a vuoto. Per esempio, portano un gruppo in aeroporto che parte e questi tornano indietro la rimessa vuota. Portano certo. Un gruppo in una città d'arte che sta lì molto tempo, l'autobus torna a vuoto e li va a riprendere. Quindi si genera un sacco di tratte a vuoto che non sono sfruttate. Giusto, giusto. E qui arrivate voi. E lì vi inserite voi con un'app. Esatto, abbiamo un'app, un sito, una piattaforma e diversi canali di comunicazione. Mm-hmm. E come sta andando? Allora, il servizio è partito da poco, abbiamo già diverse tratte, alcune molto interessanti, anche lunghe nord-sud, abbiamo già diverse richieste e quindi ci aspettiamo di fare dei buoni risultati. L'applicazione, il sito si chiama GoGoBus, c'è anche esatto. Un'app, raccontaci tutte le dove siete presenti, le piattaforme, come si fa, piattaforme. Prima però devo fare una domanda che è doverosa, sì. Visto che Alessio si batte per non usare troppe parole in inglese, volete essere chiamati GoGoBus o GoGoBus? Ma un po' come preferite voi, a me va bene tutto. Qua è il commerciale che sta parlando, però noi volevamo una presa di posizione. Va bene, allora facciamo gli internazionali, facciamo GoGoBus. Va bene. E come dove siete presenti oltre che sul sito? Noi siamo presenti su tutti quanti i social, su Instagram, su Facebook e su Twitter. Abbiamo l'app per Android e per iOS e ci trovate un po' da tutte le parti, insomma. Qual è la tratta che sta andando meglio? C'è una linea su cui vi siete già inseriti meglio? Allora, per il momento diciamo che siamo ben presenti su tutto l'asse che fa Piemonte, Lombardia, Marche e Puglia. Per il momento questa è la tratta sulla quale abbiamo maggiore offerta. Grazie Alessandro, uno dei fondatori di GoGoBus o GoGoBus, che dir si voglia, la nuova

andare contromano è la cosa più sicura che un ciclista possa fare, se permettete, perché si vedono le macchine vedono noi. Sì. No, non però, esiste una però dove non si può andare, però dove non si può andare non si deve andare, e bisogna rallentare, perché se mi acceleri contromano poi è un problema per tutti. No, allora, perché... l'idea fondamentale, il consiglio che diamo sempre come FIAB è se siete controsenso, perché poi contromano è anche sbagliato come parola da usare, controsenso, fermatevi, fate molta attenzione a quello che fate perché siete in torto. Dopodiché, che si passi controsenso, perché la strada più corta, e i ciclisti prendono sempre la strada più corta, detto che si può fare di andare controsenso, perché ad oggi, per come è il codice della strada oggi, nelle zone 30 all'ora, se il comune si assume la responsabilità, si può tranquillamente usare il controsenso, non è un gran problema, tocca alle amministrazioni darsi da fare anche in questa, e questa è una riforma a costo zero, si tratta di mettere un cartello eccetto bici. Certo. Si fa in tutta Europa, si fa anche in Polonia. Però è giusto ricordare quello 30. Che lei ha detto, che comunque se si va contro mano in questo momento in Italia si è in torto, perché sennò si crea un pasticcio per cui si viene detto che le biciclette pensano di essere dalla parte della ragione. Si è in torto, è vero che a volte lo si fa non tanto per la questione di pigliare la strada più breve, che tutti vorrebbero prendere la strada più breve, anche quelli con il camion, però è vero che in bicicletta a volte la si prende perché giustamente dice tanto io sono una bicicletta, sto di lato, quindi non è che impedisco alle altre macchine di non passare. E nel caso sicuro, perché la macchina che mi la macchina pensano sempre ce la faccio a superare il ciclista e poi lo c'entrano. L'incidente più normale per il ciclista è il tamponamento. Sì, sì, questa è la ragione vero. Che dicevo, che ci vediamo reciprocamente e siamo in grado di gestire gli spazi. Sì, però questo anche perché non la raccontano mai. Si fermano. A quel punto i ciclisti si fermano. Non è un buon motivo per farsi centrare anche frontalmente. No, esatto. No, assolutamente no. E buone pedalate a tutti, allora. La nostra rubrica campioni bestiali, cioè proprio quelle le storie di sport che così diciamo deviano un po' rispetto al percorso tradizionale. Qua stiamo parlando dell'arrivo in Italia del calcio camminato. Ne parliamo con Roberto Terra, che è responsabile del progetto Walking Football dello WISP di Bologna. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Può sembrare una cosa un po', come dire, un po' mesta il calcio camminato, un po', possiamo dire anche un po' triste, perché il calcio camminato... Però invece non è così, ci spieghi perché? Prima di tutto vi dico che veramente veder, anche solo vederlo, al di là di praticarlo, è molto più divertente che raccontarlo. È chiaro che sentire parlare di calcio camminato, uno immagina una roba veramente triste. E invece in realtà, cosa dobbiamo immaginarci? Ci sono solo dei limiti, ci sono solo quei 2-3 limiti in più, sì, che permettono che la partita di calcio, di calcetto, sia svolta bene da tutti, sia accessibile a tutti. Queste le tre regole principali appunto sono che non si può correre, certo, però il passo svelto è concesso, altrimenti viene il passo svelto è qua che secondo me comincia l'aspetto divertente, esatto, perché voglio vedere delle persone, sì, che cercano di inseguire un pallone senza correre, perché non si può correre. Poi la tecnica. Perché devi dare sempre la palla sui piedi al tuo compagno di squadra. Certo, perché se gliela lanci lontana dal piede, non potendo correre, non può fare quello scattino che si fa normalmente. Quindi diventa un calcio di precisione. Sì, anche. Sì. E poi le altre due regole? Poi le altre due, che la palla non può superare l'altezza della dita. Okay. Per evitare delle pallonate forti in faccia piuttosto che il petto. Però lì, perché l'abbiamo capito, è un calcio molto pacifico. Quindi, terza regola? E poi il terzo, che non si può entrare con irruenza, quindi anche una scivolata per quanto non si può fare. Il tutto, chiariamolo bene, Terra, perché si fa, sì, questa cosa che viene dall'Inghilterra? Perché appunto permette di giocare a calcio a della gente o in là con l'età, che quindi ormai non riesce più a reggere i ritmi e anche l'intensità. Io tra qualche annetto, per esempio, sì, di calcetto, sia per chi ha dei problemi fisici, che magari è un po' più giovane ma ha avuto dei problemi fisici più importanti, insomma ti permette di poterti giocare la tua bella partita. partita nel massimo della tranquillità, nel massimo... Direi che è il calcio perfetto per Maradona. Per Maradona e per tutti quelli come lui. Cari amici all'ascolto, che rientrate nell'identikit fatto da Roberto Terra dello Wisp di Bologna, informatevi, perché il calcio camminato è una opportunità. Grazie per averci seguito sin qua, è tutto anche per questa puntata di Si può fare. Vi ricordo che torniamo in diretta sabato mattina alle 7:30. Ciao a tutti da Alessio Maurizi. Buona giornata.